Smart City. Voci e luoghi dell'innovazione. Di Maurizio Melis. Buonasera da Maurizio Melis, continuiamo a parlare di chirurgia robotica questa sera e in particolare di come i robot chirurgici si stiano differenziando, un po' come i medici, specializzandosi in diverse tecniche operatorie. Ieri abbiamo parlato di Mesor Renaissance, pensato per guidare la mano del chirurgo nel posizionare viti e placche negli interventi di ricostruzione o di ricomposizione, diciamo così, della colonna vertebrale. Mesor Renaissance è in effetti più che un robot, un cobo, ovvero un robot cooperativo, che cioè non agisce indipendentemente dall'uomo ma che lo assiste in modo da, diciamo così, ridurre gli errori e aumentare la precisione. Anche Mako, il robot chirurgico di cui parliamo questa sera, è a tutti gli effetti un cobo, un robot collaborativo. Di che cosa si tratta? Beh, ne parliamo con Carmine Naccari Tarlizzi, responsabile dell'ortopedia della clinica Columbus. Buonasera Naccari. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Allora Naccari, intanto in che tipo di operazioni viene utilizzato Mako? In che cosa consistono e che scopo hanno abitualmente? Allora, noi parliamo di una piattaforma robotica per l'ortopedia. Questo Mako non è altro che una piattaforma robotica che ci consente di fare due tipi di interventi. Un intervento di artroplastica, cioè di praticamente di protesi di anca, e un intervento di protesi di ginocchio. Questi interventi sono diretti a quei pazienti in cui le articolazioni sono degenerate, quindi usurate. In questi casi noi dovremo impiantare delle protesi. Il Mako Rio, con questa piattaforma, a secondo del terminale che noi andremo a utilizzare, ci aiuterà ad impiantare queste protesi in maniera precisa. Parliamo quindi complessivamente di rimuovere delle parti di osso e di sostituirle con delle protesi che si devono incastrare perfettamente. In che modo Mako l'aiuta a svolgere questo lavoro? Intanto quando siete lì, proprio sul tavolo operatorio. Allora, nel momento in cui noi abbiamo stabilito il tipo di protesi che dobbiamo impiantare, la taglia, a questo punto noi abbiamo già aperto il ginocchio e inseriamo il braccio meccanico di Mako. Questo braccio meccanico di Mako viene chiaramente, non è automatico, viene guidato dal chirurgo. Lo tiene in mano lei? Lo tengo assolutamente in mano io e lo manovro in mano io. Ho un pedale che mi consente di rimuovere le parti ossee che voglio rimuovere. Ecco, perché stiamo parlando di una fresa un po' simile a quella che usano i dentisti per capirsi, una fresa, no? Una fresa un pochettino più grande grossa di quella che adoperano i dentisti. Però che cosa è la peculiarità di questo robot? È quello che nel momento in cui io volessi, impazzito o per qualunque ragione. Stanco, al dare al di fuori di quello che è il progetto, quindi spostare questo braccio fuori da dove io devo andare a impiantare, cioè fare un buco nell'osso più grosso di quello che serve, per esempio. Fare un buco più grosso, quindi assolutamente mi consente di fare, perdonatemi il paragone con un falegname, uno scasso esattamente preciso a regola d'arte, millimetrico, anzi al decimo di millimetro, tale da accogliere la protesi, che sarebbe questa benedetta componente metallica, certo, che io devo fare entrare all'interno dello scasso in maniera assolutamente precisa, affinché non abbia movimenti, affinché non abbia malallineamenti, affinché funzioni con il minore attrito possibile. Ecco, per poter godere di questi vantaggi durante la fase operatoria c'è bisogno di una fase preparatoria, però, ecco, abbastanza significativa. E questo è assolutamente indispensabile, perché il robot deve sapere esattamente dove si trova, su che tipo di ginocchio stiamo lavorando. Quindi noi dobbiamo acquisire delle immagini. L'acquisizione delle immagini avviene mediante una normalissima TAC, chiaramente daremo allo studio radiologico delle indicazioni particolari e inseriremo questo studio radiografico TAC all'interno del computer che assiste il robot. Il quale si crea un modello tridimensionale del ginocchio del paziente, giusto? Si crea assolutamente un modello tridimensionale del ginocchio. Questo modello tridimensionale poi dovrà essere riconosciuto. Il robot deve dirmi: ok, ho capito, ci troviamo effettivamente in questo ginocchio del quale tu mi hai già dato l'immagine, che io ho, mi hai spiegato anche dove devono essere effettuati i tagli, quanto devono essere profondi. A questo punto il robot è pronto e io lo posso utilizzare. Quindi pianificate in termini virtuali questa operazione in modo che il robot sappia esattamente, sovrapponendo questo modello digitale al ginocchio reale, sappia esattamente come comportarsi. Senta, certo. Quali sono i vantaggi che lei ha potuto misurare sui pazienti che ha avuto l'opportunità di operare finora con questa tecnologia? Diciamo che la chirurgia robotica assicura la massima precisione dell'impianto delle componenti protesiche e anche un corretto bilanciamento articolare. Questo che cosa significa? In termini pratici significa che abbiamo meno attriti, in termini pratici significa che la riabilitazione è più rapida, in termini pratici significa che la durata della protesi è maggiore. Lei consideri che il paziente va a casa in 5 giorni ed è assolutamente autonomo. E questo dice tutto, grazie, grazie Naccari. La ringrazio e saluto tutti quanti. Ci fermiamo qui, appuntamento a domani, buona serata.